Radio 24 Reportage. Wadi Degla, un calcio ai pregiudizi, di Giampaolo Musumeci. Egitto, città del Cairo. Prosegue da mesi il violento braccio di ferro tra la piazza e il presidente Mohamed Morsi, accusato di aver tradito la rivoluzione di 2 anni fa. Gli scontri e le manifestazioni a Piazza Tahrir di fronte al palazzo presidenziale proseguono periodicamente. Ma il mese scorso un altro evento ha gettato benzina sul fuoco. La sentenza di condanna a morte per 21 tifosi di calcio e a 15 anni per 2 dirigenti di polizia dopo la tragedia di Port Said del febbraio di un anno fa ha scatenato nuovi disordini. Dopo la partita fra El Ahly, squadra del Cairo, e Al Masri, la squadra di Port Said, scoppiarono disordini. 74 morti, tutti tifosi di El Ahly. Le circostanze in cui si consumò la tragedia fecero gridare al complotto da parte delle forze di sicurezza egiziane. Luci dello stadio spente, cancelli bloccati, tifosi in balia degli ultras locali e la polizia che non mosse un dito. La recente sentenza scontenta un po' tutti, i tifosi di Al Masri che si dicono innocenti, gli ultras di El Ahly che avrebbero voluto condannati tutti e 9 i poliziotti alla sbarra. Il mondo del calcio egiziano da un anno non è più lo stesso. Il campionato è stato fermo per mesi. A Port Said, dopo la sentenza, vi sono stati morti e feriti per assalti alle caserme di polizia. L'intreccio tra il mondo del football, la politica, gli ultras e i loro conti aperti con le forze di sicurezza ha cambiato per sempre il volto dello sport più seguito in Egitto. Lontano da tutto questo, lontano dagli scontri di Piazza Tahrir, a sud della capitale egiziana, sorge un'oasi, un virtuoso esempio per il calcio dei faraoni. Siamo nella sede del Wadi Degla Football Club, a El Mahdi, ricco quartiere della capitale. Qui un gruppo di ragazze dai 20 ai 26 anni combatte contro i pregiudizi, la mancanza di denaro e di attenzione da parte dei media. Mentre il calcio egiziano maschile è seguitissimo, quello femminile è considerato poco più che un hobby. Rarissimo vedere giornalisti o fotografi nel club egiziano per seguire le donne, mentre i colleghi maschi sono al centro delle discussioni nei locali, nei taxi della capitale e non solo. El Ahly, la più blasonata e forte squadra egiziana, ha un seguito di milioni di tifosi in tutto il paese, oltre a un nucleo di ultras organizzatissimi, così come l'altra squadra del Cairo, lo Zamalek, oppure El Masri di Port Said. Le recenti vicende legate alle tifoserie di El Ahly e Al Masri, appunto, hanno occupato le prime pagine non solo dei giornali egiziani ma in tutto il mondo. La strage dei tifosi di El Ahly lo scorso anno a Port Said e i suoi risvolti politici hanno acceso i riflettori sul calcio egiziano e su quanto supporto popolare le tifoserie possono muovere. Le luci della ribalta illuminano invece molto poco le vicende sportive di Nevin Gamal e delle sue compagne di calcio qui al Wadi Degla Football Club. Nevin Gamal, 24 anni, spiega come è iniziato. Con gli amici, giocando 3 contro 3, per strada, oppure 4 contro 4, con familiari, cugini. Molti pensano che sia strano, dice, ma la mia famiglia mi ha appoggiato. La grande sfida del calcio femminile, secondo il coach della squadra, Mohamed Kamal. La prova che le donne sono allo stesso livello di professionisti maschi in un paese del Medio Oriente come l'Egitto, questa è la sfida. La squadra femminile può competere e raggiungere lo stesso livello delle squadre europee. Hanno già viaggiato in Inghilterra, in Germania e altri paesi. Secondo me, la differenza tra le squadre europee e la nostra sta nell'attitudine e nell'ambiente. Nevin fotografa così la situazione. In passato era molto difficile per la gente capire che le ragazze potevano giocare a calcio, perché è considerato uno sport da maschi. La situazione sta migliorando, ma un certo pregiudizio esiste ancora. Ma come è strutturato il calcio femminile in Egitto? Ancora il coach Mohamed Kamal. Abbiamo 2 gironi per un totale di 14 squadre. Si gioca il campionato e poi le 6 migliori entrano a far parte del gruppo dei super. Ogni squadra gioca con le altre sia l'andata che il ritorno e la squadra più forte vince. Un'altra sfida è quella per la Coppa. È costituita da 10 squadre e mano a mano che le squadre perdono vengono eliminate. Per la Coppa si gioca ormai da 4 anni. Il punto dolente resta il pubblico della squadra del Wadi Degla. Non c'è pubblico, solo i parenti delle giocatrici. E poi ci possono essere membri del club o persone che hanno una partita dopo. Principalmente sono solo parenti delle giocatrici. Di che cosa hanno bisogno le calciatrici egiziane? Il punto principale è che le nostre calciatrici hanno bisogno di più attenzione e pubblicità. Ad esempio da parte dei giornali. I giornali riempiono pagine sui problemi fisici di calciatori maschi, ma le donne, anche se dovessero vincere il campionato, riceverebbero un piccolo spazio. Ezra Kosama, 26 anni, una laurea in comunicazione, piccola e veloce ala destra del Wadi Degla e della nazionale. Puoi vedere che in Egitto le donne hanno un lavoro e una carriera e sono prese sul serio. Quando la gente arriverà a capire che il calcio e lo sport in generale sono anch'essi una professione, allora inizieranno a prenderci sul serio. In che modo far crescere il calcio femminile in Egitto? Ecco la ricetta del mister Kamal. Attraverso la scuola. Se tutte le scuole del paese si concentrassero nella promozione di questo sport, le giocatrici migliori potrebbero andare nelle scuole e così il calcio femminile diventerebbe uno sport conosciuto. E poi c'è l'aspetto politico-religioso. Quanto gli ultimi eventi egiziani, dalla rivoluzione in poi, hanno influenzato il calcio femminile in Egitto? Non ci hanno influenzato, ma se la situazione politica restasse così a lungo, potremmo venire influenzati. Sotto Mubarak c'era l'impressione di normalità nel praticare calcio femminile, ma anche ora non subiamo alcun condizionamento. Così, tra difficoltà, assenza di fondi, stipendi bassissimi, che oscillano tra i 70 e i 160 euro al mese, ma che restano il principale introito per le loro famiglie, senza le prime pagine dedicate ai maschi e con l'ombra lunga della politica che incombe, Nevin, Ezrak e le altre ragazze del Wadi Degla continuano gli allenamenti in vista del prossimo match. Il Wadi Degla è un punto di riferimento per il calcio non solo femminile. Ragazzi e ragazzini si allenano quotidianamente in vista degli incontri del venerdì. Nella moderna struttura le ragazze accedono 4 volte alla settimana per allenamenti di un paio d'ore. 9 di loro giocano nella nazionale femminile e spesso compiono trasferte all'estero. Gli allenamenti sono intensi tra preparazione atletica, partitelle, prove di schemi e allenamenti differenziati per i 4 portieri. Nel team vi sono anche 3 giocatrici algerine. Il pregiudizio di cui parlano le giocatrici non è mai divenuta aperta ostilità in questi anni. Alcune calciatrici raccontano di frasi pronunciate per strada quando vengono viste col borsone del Wadi Degla, ma mai vi sono stati atti violenti o intimidatori. Ma la passione per il pallone vince su tutto, come racconta un'altra giocatrice, Sally Mansour. Non arriveremo mai ad avere il denaro e il tifo che c'è in Europa. Ma noi giochiamo a calcio perché amiamo questo sport. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.